Sezione 12 de Il Decameron, parte prima, giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Pierre. Il Decameron, parte prima. Giornata prima di Giovanni Boccaccio. Settima novella. Bergamino, con una novella di Primasso e dell'abate di Cligni, onestamente morde una varizia nuova venuta in messer Cane della Scala. Mosse la piacevolezza d'Emilia e la sua novella la reina e ciascuno altro a ridere ed a commendare il nuovo avviso del crociato. Ma poi che le risa rimase furono e racquetato ciascuno, Filostrato, al qual toccava il novellare, in cotal guisa cominciò a parlare. Bella cosa è, valorose donne, il fedire un segno che mai non si muti, ma quella è quasi meravigliosa quando alcuna cosa non usata apparisce di subito, se subitamente da uno arciere è fedita. La viziosa e lorda vita de Chierici, in molte cose, quasi di cattività fermo segno, senza troppa difficoltà, dà di sé da parlare, da mordere e da riprendere a ciascuno che ciò desidera di fare. E perciò, come che ben facesse il valente uomo che lo inquisitore dell'ipocrita carità de frati, che quello danno a poveri, che converrebbe loro dare al porco o gittar via, trafisse, assai estimo più da lodare colui del quale, tirandomi a ciò la precedente novella, parlar debbo, il quale, messer Cane della Scala, magnifico signore, d'una subita e disusata avarizia in lui apparita morse con una leggiadra novella, in altrui figurando quello che di sé e di lui intendeva di dire, la quale è questa. Sì, come chiarissima fama quasi per tutto il mondo suona, messer Cane della Scala, al quale in assai cose fu favorevole la fortuna, fu un de più notabili e dei più magnifici signori che dallo imperatore Federico II in qua si sapesse in Italia, il quale, avendo disposto di fare una notabile e maravigliosa festa in Verona, e da quella molte genti e di varie parti fosser venute, e massimamente uomini di corte d'ogni maniera, subito, qual che la cagion fosse, da ciò si ritrasse, ed in parte provvedette coloro che venuti verano e licenziolli. Solo uno, chiamato Bergamino, oltre al credere di chi non l'udì presto parlatore ed ornato, senza essere d'alcuna cosa provveduto o licenza datagli, si rimase, sperando che non senza sua futura utilità ciò dovesse essere stato fatto. Ma nel pensiero di messer Cane era caduto, ogni cosa che gli si donasse, vi è peggio esser perduta che se nel fuoco fosse stata gittata, né di ciò gli dicea o facea dire alcuna cosa. Bergamino, dopo alquanti dì, non veggendosi né chiamare né richiedere a cosa che a suo mestier pertenesse, ed oltre a ciò consumarsi nell'albergo con suoi cavalli e con suoi fanti, incominciò a prender malinconia, ma pure aspettava, non parendogli ben far, di partirsi. Ed avendo seco portate tre belle e ricche robe che donate gli erano state da altri signori per comparire orrevole alla festa, volendo il suo oste esser pagato, primieramente gli diede l'una, ed appresso, soprastando ancora molto più, convenne, se più volle col suo oste tornare, gli desse la seconda. E cominciò sopra la terza a mangiare, disposto di tanto stare a vedere quanto quella durasse e poi partirsi. Ora, mentre che egli sopra la terza roba mangiava, avvenne che egli si trovò un giorno, desinando messer cane, davanti da lui assai nella vista malinconoso, il quale, messer can veggendo, più per istraziarlo che per diletto pigliare da alcun suo detto, disse: «Bergamino, che hai tu? Tu stai così malinconoso. Dinne alcuna cosa». Bergamino allora, senza punto pensare, quasi molto tempo pensato avesse, subitamente in acconcio dei fatti suoi disse questa novella. «Signor mio, voi dovete sapere che Primasso fu un gran valente uomo in grammatica e fu, oltre ad ogni altro, grande e presto versificatore, le quali cose renderono tanto ragguardevole e sì famoso che, ancora che per vista in ogni parte conosciuto non fosse, per nome e per fama quasi niuno era che non sapesse chi fosse Primasso. Ora avvenne che, trovandosi egli una volta a Parigi in povero stato, sì come egli il più del tempo dimorava per la vertù che poco era gradita da coloro che possono assai, udì ragionare d'un abate di Cligny, il quale si crede che sia il più ricco prelato di sue entrate che abbia la Chiesa di Dio, dal Papa in fuori, e di lui udì dire maravigliose e magnifiche cose in tener sempre corte e non esser mai ad alcuno che andasse là dove egli fosse negato né mangiar né bere, solo che quando l'abate mangiasse il domandasse. La qual cosa Primasso udendo, sì come uomo che si dilettava di vedere i valenti uomini e signori, deliberò di volere andare a vedere la magnificenza di questo abate e domandò quanto egli allora dimorasse presso a Parigi, a che egli fu risposto che forse a 6 miglia ad un suo luogo, al quale Primasso pensò di potervi essere, muovendosi la mattina a buona ora, ad ora di mangiare. Fattasi adunque la via insegnare, non trovando alcun che v'andasse, temette non per il sciagura gli venisse smarrita e quinci poter andare in parte dove così tosto non trovaria da mangiare. Perché, se ciò avvenisse, a ciò che di mangiare non patisse disagio, seco pensò di portare 3 pani, avvisando che dell'acqua, come che ella gli piacesse poco, troverebbe in ogni parte da bere. E quegli, messisi in seno, prese il suo cammino, e venne di sì ben fatto che avanti ora di mangiare pervenne là dove l'abate era. Ed entrato dentro, andò riguardando per tutto, e veduta la gran moltitudine delle tavole messe ed il grande apparecchio della cucina e l'altre cose per lo desinare apprestate, tra sé medesimo disse: «Veramente è questi così magnifico come uom dice?» E stando alquanto intorno a queste cose attento, il siniscalco dell'abate, perciò che ora era di mangiare, comandò che l'acqua si desse alle mani, e data l'acqua, mise ogni uomo a tavola. E per ventura avvenne che Primasso fu messo a sedere appunto di rimpetto all'uscio della camera donde l'abate doveva uscire per venire nella sala a mangiare. Era in quella corte questa usanza che in sulle tavole vino né pan né altre cose da mangiare o da ber si ponea giamai se prima l'abate non veniva a sedere alla tavola. Avendo dunque il siniscalco le tavole messe, fece dire all'abate che, qualora gli piacesse, il mangiare era presto. L'abate fece aprire la camera per venir nella sala e venendo si guardò innanzi e, per ventura, il primo uomo che agli occhi gli corse fu Primasso, il quale assai male era in arnese e cui egli per veduta non conoscea. E come veduto l'ebbe, incontanente gli corse nell'animo un pensiero cattivo e mai più non istatovi e disse seco: «Vedi a cui io do da mangiare il mio?» E tornandosi addietro comandò che la camera fosse serrata e domandò coloro che appresso lui erano se alcuno conoscesse quel ribaldo che dirimpetto all'uscio della sua camera sedeva alle tavole. Ciascuno rispose del no. Primasso, il quale avea talento di mangiare, come colui che camminato avea ed uso non era di digiunare, avendo alquanto aspettato e veggendo che l'abate non veniva, si trasse di seno l'un de tre pani li quali portati avea e cominciò a mangiare. L'abate, poiché alquanto fu stato, comandò ad un de suoi familiari che riguardasse se partito si fosse questo primasso. Il familiare rispose: «Messer no, anzi, mangia pane, il quale mostra che egli seco recasse». Disse allora l'abate: «Or mangi del suo, se egli n'ha, che del nostro non mangerà egli oggi». Avrebbe voluto l'abate che primasso da se stesso si fosse partito, perciò che accomiatarlo non gli pareva far bene. Primasso, avendolo un pane mangiato, e l'abate non venendo, cominciò a mangiare il secondo, il che similmente all'abate fu detto, che fatto aveva guardare se partito si fosse. Ultimamente, non venendo l'abate, primasso, mangiato il secondo, cominciò a mangiare il terzo, il che ancora fu all'abate detto, il quale se costesso cominciò a pensare ed a dire: «De, questa che novità è oggi, che nell'anima m'è venuta? Che avarizia, che intesdegno, e per cui? Io ho dato mangiare il mio, già è molti anni, a chiunque mangiarne ha voluto, senza guardare se gentile uomo è o villano o povero o ricco, o mercatante o barattiere stato sia, e da infiniti ribaldi con l'occhio me l'ho veduto straziare, né mai nell'animo m'entrò questo pensiero che per costui mi c'è entrato. Fermamente avarizia non mi dee aver assalito per uomo di piccolo affare, qualche gran fatto dee esser costui che ribaldo mi pare, poscia che così mi s'era intuzzato l'animo d'onorarlo». E così detto volle sapere chi fosse, e trovato che era primasso, quivi è venuto a vedere della sua magnificenza quello che n'aveva udito, il quale, avendo l'abate per fama molto tempo davanti per valente uomo conosciuto, si vergognò e, vago di far l'ammenda, in molte maniere si ingegnò d'onorarlo, ed appresso mangiare, secondo che la sufficienza di primasso si conveniva, il fe nobilmente vestire, e donate di denari ed un palafreno nel suo arbitrio rimise l'andare e lo stare, di che primasso contento, rendute di quelle grazie le quali poté maggiori, a Parigi, donde a piè partito sera, ritornò a cavallo. Messer Cane, il quale intendente signore era, senza altra dimostrazione alcuna, ottimamente intese ciò che dir volea Bergamino, e sorridendo gli disse: «Bergamino, assai acconciamente hai mostrati i danni tuoi, la tua vertù e la mia avarizia, e quel che da me desideri. E veramente mai più che ora per te d'avarizia salito non fui, ma io la caccerò con quel bastone che tu medesimo hai divisato». E fatto pagare l'oste di Bergamino, e lui nobilissimamente d'una sua roba vestito, dati di denari ed un pallafreno, nel suo piacere per quella volta rimise l'andare e lo stare. Fine della sezione 12.